YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Eccoci con la terza ora del sabato del villaggio, che è poi, insomma, come sempre, la più bella, la più intensa. Oggi tante storie importanti. Daniele, buonasera. Daniele, buonasera. Senti, ma ho sentito, ma Sanremo tutto pieno di novità, è proprio originalissimo. Non ce la fa. Copertina, provate voi che siete lì in macchina, come dice Milan, mani sul volante. Grande sorpresa. Secondo voi quale sarà il comico che apre Sanremo con una cosa che si chiama copertina? Che scelta originale. Allora, due cose non mi puoi toccare, Daniele: il Festival di Sanremo e Maurizio Crozza. E io nella stessa frase te le tocco tutte e due. No, ma no, per dire, guarda, che originalità. Sarà bellissimo. I cantanti li hanno chiamati? Sì, oltre a Paola Turci, l'unica cantante chiamata quest'anno. Ma la Mannoia, il pezzone, sì, della Mannoia, il pezzone. Scherzo, della Turci. Ormai è un tormentone. Vabbè, abbiamo parlato all'inizio del sabato del villaggio. Sì. Chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio, ho scoperto Radio Tube. Posso dire, siccome ho scoperto Medium. Ah, certo, benvenuto bellissimo nel mondo. Ecco. Su Medium sono invece, come si dice, la chiocciolina Daniele Bellasio tutto attaccato. L'ho cambiato, fatto come Marta Cagnola. Se conoscesse Medium, magari una di queste puntate parliamo di questa piattaforma, possiamo dire. Sì, che sta ripensando se stessa, al punto che sono anche licenziata, si può dire. Vabbè, cioè, insomma, è una cosa sta cambiando. Un po' complessa, e ne parleremo, perché non è così famoso. A proposito di Medium, Simone Spezia, che conosci? È quello conosco, che sta dietro di te in redazione. Ha scritto su Medium una cosa molto, molto interessante sulla protezione civile. Ah, sì. Momenti molto, molto, molto importanti. E questa volta la Protezione Civile ha fatto una cosa bellissima anche sui social network, tanto che noi dal sito del Sole 24 Ore a un certo punto ci siamo detti: ma lo stanno facendo questo Facebook Live nei momenti più, insomma, operativi e drammatici della crisi che abbiamo vissuto in questi giorni? E quindi abbiamo linkato dal nostro sito alla loro pagina Facebook, dove veniva mostrato in diretta live video delle operazioni. Beh, insomma, tutto quello che è successo di drammatico in questi giorni lo sappiamo bene, ma allora noi lo chiediamo direttamente. Ecco, come cambia questo tipo di missione, lavoro, professione, quando ci sono i social network lì, tu li puoi usare, ma anche ti guardano. Allora ne parliamo subito con Francesca Maffini, responsabile dell'ufficio stampa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Buonasera Francesca. Buonasera. Buonasera a voi. Francesca, intanto ti faccio una domanda, perché non è detto che gli ascoltatori sappiano esattamente in cosa consiste il tuo lavoro di responsabile dell'ufficio stampa della Protezione Civile. Allora, è molto differente di giorno in giorno, è molto differente in ordinario e nelle situazioni di emergenza. Il Dipartimento Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha il compito di coordinare le varie attività in pianificazione, in prevenzione e in fase di emergenza su tutti i livelli, e quindi è un lavoro quotidiano di coordinamento, di rapporto, di contatto con tutti gli uffici di stampa, con tutti i responsabili della comunicazione delle varie strutture operative che sono, e delle componenti, quindi dalle regioni, comuni, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alle forze armate. Quindi il nostro compito, l'obiettivo che ci diamo su tutte le attività, quindi anche su quelle di comunicazione, è cercare di dare delle informazioni di servizio coordinate tra tutti noi, perché in protezione civile l'informazione ha una diretta ripercussione sulle attività del singolo, e quindi dobbiamo essere davvero attenti e dobbiamo metterci molta attenzione coordinandoci tra tutti noi. Ecco, ma questo spieghiamolo bene, perché spesso non si capisce il fatto che la protezione civile, oltre a svolgere un ruolo in quanto protezione civile, è una specie di software che mette in rete tutti gli operatori, insomma, dai comuni, dai sindaci, i vigili del fuoco. È corretto spiegarlo così, perché forse questo non è percepito nel migliore dei modi. Sì, protezione civile possiamo dire che è il sistema paese Italia, perché siamo tutti, sono i cittadini, sono i comuni, le regioni, siamo tutti noi. Quindi ognuno fa il proprio pezzo di cui è responsabile, e per essere efficace, per essere esaltato all'ennesima potenza, è chiaro che più lo fa coordinandosi con gli altri, più otteniamo tutti quanti dei risultati. Quindi il dipartimento sì è questa struttura che coordina le eccellenze del paese. Metti in rete. E a proposito di rete? Sì, appunto, un tempo l'ufficio stampa cosa faceva? Diffondeva delle notizie appunto alla stampa, agli organi di informazione. Adesso ormai va di moda la parola disintermediazione, che è una parola un po' complessa e ormai è diventata anche un po' una parolaccia. Però attraverso i social network, come diceva Daniele, i vari organismi possono direttamente mostrare ai cittadini quello che sta accadendo, e in questi giorni abbiamo visto fortunatamente non solo delle immagini drammatiche, ma anche delle immagini dei salvataggi, delle operazioni, insomma del lavoro, della gente all'opera. E in questo momento sta veramente cambiando tutto, Francesca? Sì, è un sistema, il paese che cambia, e cerchiamo di starci dietro. La riflessione su come migliorare, come implementare la comunicazione anche utilizzando tutti questi strumenti come sistema di protezione civile la stiamo portando avanti da anni, tanto che appunto abbiamo ormai 3 anni fa è partito il progetto Social Procib, con appunto l'obiettivo di darci delle linee guida, delle policy che fossero utilizzabili da parte di tutti i soggetti che fanno parte del sistema di protezione civile, certo, ma finalizzato a dare a tutti i cittadini dei riferimenti sulle fonti per i diversi rischi, nel senso che vorremmo che i cittadini italiani e non solo sapessero, per esempio, se vogliono avere delle informazioni certificate su scosse, la fonte istituzionale è INGV. Quindi l'obiettivo, il grande sforzo è quello di fare in modo che sia facilmente recuperabile attraverso tutti gli strumenti l'informazione delle istituzioni, proprio per quello che dicevo inizialmente, perché in una situazione di emergenza ancora di più i comportamenti dei cittadini devono essere il più corretti possibili, e sta a noi come istituzioni da una parte poterglieli fornire e dall'altra dare gli strumenti a loro di fidarsi delle fonti. Ecco, mi piace molto una cittadini... buona timeline, esatto, di fonti, esatto, di account giusti per conoscere Vigili del Fuoco, INGV, affidabili, attendibili, che insomma le istituzioni possono così avvicinare subito, sì, i cittadini anche in tempo molto rapido. Sì, davvero, sappiamo che le bufale, scusatemi, esatto, brava, giusto, perché le bufale non solo appunto su false notizie dei rischi, ma ad esempio anche per esempio sulle donazioni nelle situazioni di emergenza, sono informazioni molto delicate, perché i cittadini, gli italiani sono un popolo generosissimo, e quindi vorremmo, l'obiettivo è proprio quello di indirizzare e di dare informazioni precise su tutte le attività. Giusto. Grazie a Francesca Maffini, coordinatore dell'ufficio stampa del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buon lavoro in questi giorni davvero complicati. Buon lavoro e grazie. Buon lavoro a voi, grazie. Noi ci ritroviamo tra poco, parliamo ancora di quello, sì, che è successo in questi giorni. Uno bello. Mostriamo dei video alla radio, anche perché abbiamo un ospite e io non sapevo. Un bell'uomo, hai visto che bell'uomo? Ragazzi, io anzi tutto ragazzi, oltre a uno dei più bravi giornalisti del è Sole, uno dei più bei giornalisti del Sole 24 ore, e in questo momento in regia si è nascosto sotto il tavolo, è diventato Viola, è sposato, tanto è diventato Viola. Annunciamo, vabbè. Il traffico a tra poco. Radio Tube. Portieri gravi vivi, stiamo operando insieme a USA Toscana e a componenti della Piemonte per tirarli fuori, ma sono vivi. Copiato, sei vivi, grazie caporeparto, ci vediamo a breve, sto salendo giù. Però servono coperte, elicotteri per portarle via, che stanno comunque non in perfette condizioni, come puoi ben capire. Velivolo del 118 in volo e velivolo rosso in volo. Beh, quando si sente un audio così in cui qualcuno dice sono vivi, quando nessuno più credeva possibile una cosa, una notizia così positiva, è stupendo. Io vi posso dire come l'ho saputo io, veramente ancora futilità. Io ero chiusa in una stanza in Rai ad ascoltare le canzoni del Festival di Sanremo e a un certo punto Carlo Conti, che sa che cosa è importante nella vita e che cosa non lo è, ha detto: vi devo dire che hanno trovato dei superstiti. Insomma, per far capire ancora una volta che anche noi non pensiamo che insomma tutto il mondo davvero ruoti. Io invece l'ho sentito proprio dallo Spezia citato prima, che ha fatto una breaking news dentro la trasmissione di Carbone Rosciani. È stato un momento importante. Allora, tu devi sapere che a un certo punto noi al sito del Sole 24 Ore ci siamo detti: ma Riccardo Barla? Ciao Riccardo, ciao che sei a tutti qui. E troppa grazie a Sant'Antonio. Se sì, per prima, per il fatto che eri bello. Vabbè, ma adesso parliamo di cose serie, perché la bellezza sì. Passa. Bah, nel tuo caso. No, allora, no, ci siamo ricordati che tu sei di Penne, la tua famiglia è di Penne. È di Penne, sì. Io ho passato le estati della mia infanzia accanto a quell'hotel Rigopiano, che negli anni 70 era una pensioncina, e perché i miei mettevano lì una roulotte. Si usava il campeggio libero, quelli più avanti, diciamo così, facevano campeggio libero, erano due o tre famiglie. Io stavo negli alberi, stavo sugli alberi attorno a quell'hotel per dei mesi. Hai scritto un articolo che potete ritrovare sul sito del Sole, che ha avuto 260.000 visualizzazioni su Facebook, in cui racconti quella terra. Sì, diciamo che io quando ho saputo di questa cosa ovviamente mi si è mosso qualcosa dentro, perché è la mia terra, perché sono legato all'Abruzzo, l'ho scritto anche nell'articolo. Mi piacciono le cose belle dell'Abruzzo, ossia la gente, mi piacciono i luoghi, mi piacciono meno le cose che non vanno, la corruzione, la mala politica, la cementificazione, ahimè. E quindi sono molto legato a questi posti. Questi posti sono i miei luoghi, ognuno di noi è dei posti così. E io devo pensare a dei posti, penso a certi posti del Gran Sasso. A Natale sono andato in un posto che si chiama il Voltigno, così, che era tutto innevato, non c'era nessuno, e così, e un altro di Rigopiano, assolutamente. E niente, ho scritto semplicemente di getto quello che mi ha suscitato questa cosa, ossia non ne avevo voglia in realtà di scrivere, perché è vero, perché ti abbiamo dovuto un po' pregare, era quella di stare in silenzio e di rispettare il dolore, rispettare la tragedia che è stata incredibile. E poi la cosa si mischiava appunto a tutti questi ricordi, perché da dove è scesa la valanga era il posto che io dagli alberi, guardando in su, pensavo da bambino: voglio salire fin su a quella montagna. Poi ci sono arrivato. Non è una gran cosa quella montagna, bisogna capire che l'hotel Rigopiano è in bassa montagna, è nel primo Gran Sasso, a 1200 metri, quindi quando dicevano: questi sono matti, sono andati nell'albergo lì. Secondo montagna. Te è stato raccontato bene? No, assolutamente no. Stato... Perché io non l'avevo capito. Allora, anche perché mi è sembrato a un certo punto che ci volesse a tutti i costi trovare il ma forse è stato costruito in maniera sbagliata, cioè un retropensiero. Allora, si trova a Rigopiano, che vuol dire la piana che c'è prima di salire al Vado Vetica, che si chiama così, e dietro c'è Campo Imperatore, questa specie di altopiano tibetano, da cui poi comincia la montagna vera e il Gran Sasso, e si va fino su all'albergo cosiddetto Duca degli Abruzzi, o Mussolini, dove era stato prigioniero Mussolini quando insomma salvato dai tedeschi, insomma, e lì c'è un osservatorio astronomico, lì in montagna. Rigopiano non è alta montagna, ma è 1200 metri, ed è un posto dove si va d'estate in macchina a fare i picnic, per dire. Ci vanno quelli che vanno in montagna, ma ci vanno le famiglie, ecco, con gli arrosticini, con il pallone, così. Questo hotel è stato ristrutturato negli ultimi anni, grazie al coraggio di due ragazzi di Pescara che hanno intrapreso questa attività e hanno anche investito tanti milioni di euro per, per sistemare questo vecchio hotel che hanno rilevato e l'hanno trasformato in una specie di beauty farm dove le persone stanche della città vanno a riposarsi 3-4 giorni, ecco. È un po' così. È un posto dove non si scia, dove si possono passeggiare, non ci sono piste da sci, e c'è un bosco dietro all'albergo, e quindi la cosa stranissima, per me anche un po' incomprensibile, è da dove si è scesa sta neve, perché c'è un bosco di faggi e poi via via di conifere che arriva fino in alto. Evidentemente la situazione era veramente eccezionale. Certo, l'Abruzzo in questi ultimi anni ne ha subite abbastanza, e io devo dire la cosa che poi scrivo anche in quell'articolo, il mio disagio a scriverne, perché ero un pochino combattuto nel momento in cui, allora, sapete che hanno tolto le province, quindi non ci sono i soldi, però tolto del tutto, insomma le cose che facevano le province sono cose abbastanza utili, sì. Tipo le scuole, ogni tanto se ne casca anche qua a Milano una palestra qualche tempo fa, le strade, io vado in bicicletta e chi va in bicicletta o comunque chi va nelle strade minori italiane ci vuole poco a capire che se non sei in Alto Adige o in Svizzera o in Tirolo, in posti così, le strade italiane sono abbastanza devastate. Quelle in particolare davanti all'hotel Rigopiano, ci sono passato qualche mese prima del terremoto, a giugno, con un giro che abbiamo fatto con degli amici dal Tirreno all'Adriatico in mountain bike, e io mi ricordo veramente il passaggio da Campo Imperatore, della provincia dell'Aquila, alla provincia di Pescara, non esagero, la sensazione è la stessa che ho avuto quando sono andato una volta in Bosnia dopo la guerra. Cioè le strade erano, è finita la guerra ieri, così, abbandonate a se stesse. La cosa interessante del tuo pezzo è che al di là di tutte le polemiche che non vanno fatte, soprattutto durante l'emergenza, tu dici la manutenzione è una cosa importante, cioè traspare dal tuo articolo di là delle situazioni eccezionali la manutenzione è comunque importante. Ma sì, perché è strano che lì siano arrivati i soccorsi con il sci alpinismo. Pensate in Alto Adige, mi ha scritto tra le varie cose, tra le varie persone che mi hanno scritto su Facebook, una signora dell'Alto Adige mi ha scritto: amo l'Abruzzo, amo il centro Italia, quello che trovo ogni volta che arrivo da voi è che manca un piano di manutenzione. Cosa che c'è in Alto Adige, perché hai avuto tanti feedback postando questo articolo. Sì, insomma, anche mi sembra, io mi sentivo in dovere di scriverlo per una questione di anche di compartecipazione, civile. Ecco, civile, di compartecipazione, anche di come dire, anche di non so come dire, di sentirmi anche parte di quella comunità, e quindi sia del dolore ma anche di dire: non siamo bene, gli abruzzesi sono forti e gentili, va bene Silone, va bene a prenderle sempre in quel posto, però fino a un certo punto, ecco. Sì, la strada tra l'altro nel pulita. Tuo paese appena hanno messo il centro della protezione civile di raccolta. Sì. Ma che dici, li facciamo raccontare, visto che noi ci occupiamo di video, di film, tu poi te ne occupi ancora più di me, facciamogli dire, sta facendo una cosa bella, bellissima, Riccardo Barla. Ma la lo so, vedremo alla fine. E allora dai, stiamo, e una volta che ti abbiamo rapito ti facciamo raccontare tutto. Stiamo facendo un film autoprodotto, un film documentario sulla storia dei più forti nuotatori italiani paralimpici, che sono 7, e in realtà sono qualcuno in più, però 7 di questi si allenano a Milano, sono 2 ragazzi e 5 ragazze, sono stati alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. E uno è un campione, Federico Morlacchi è l'atleta che ha vinto più medaglie di tutte tra normali e paralimpici, insomma è andato alla cerimonia con Mattarella, aveva un oro, 3 argenti, scusami se Federico se sbaglio, e 2 bronzi o 4 bronzi, insomma aveva 4-5 medaglie tipo Mark Spitz o Phelps, quindi era abbastanza impressionante. Sto girando, insomma abbiamo già girato, stiamo montando, facendo la parte finale di questo lavoro, dopo la sceneggiatura, tutto il girato di questo video documentario che si chiama I pesci combattenti, e c'è già un trailer su YouTube, lo trovate, I pesci combattenti, e speriamo a fine febbraio di poterlo far vedere da qualche parte. Quindi adesso dobbiamo linkare il tuo pezzo e anche il trailer del documentario. Grazie molte. Sono i più forti nuotatori paralimpici italiani, tra i più veloci al mondo, campioni nella vita e nello sport. Fanno parte del progetto Acquario, si allenano a Milano, ma provengono da città diverse e da diverse società sportive. Superare il limite è la loro normalità. Diventare i migliori, i più forti, è il sogno, l'obiettivo di ogni atleta. Una sfida contro gli altri, contro il cronometro, contro se stessi. Pesci combattenti non mollano mai. Questa è la loro più grande vittoria. Quanto è importante riuscire, al di là del lavoro quotidiano, a fare un lavoro del genere che possa gratificarti, al di là del lavoro appunto quotidiano e del quotidiano? Lo dice perché anche lei è qualche documentario, sì, la fa. Sì, perché è qualcosa che davvero... Sai, sono alla fine un po' alla Siddhartha, uno cerca anche degli stimoli nella vita quotidiana, no? È un po', ecco, tutti noi, e quindi le cose che ci muovono non sono solo l'aspetto economico, ma sono anche altre a volte, quindi questa è una di quelle storie. La prossima volta invece ti ospitiamo per farti parlare di sport. Bene, vieni a parlare, volete, di sport. Ah sì, perché sai, lui tipo 6 Ironman, sì, 7 maratone. E io ogni volta che gli dico, vabbè, ma l'Ironman, e lui mi guarda e mi dice, ma quello è facile, no, quello è facile, anche a me lo si dice, può fare, basta volerlo, sì, basta volerlo, appunto, basta volerlo, allenarsi, ma insomma. Che mito. Grazie. Rick. Ciao, grazie a Riccardo Barlano, l'abbiamo rapito dal Sole 24, abbiamo fatto scendere dalla in radio. Dalla redazione Finanza, peraltro, perché poi non abbiamo detto che è anche una redazione madre, oltre a tutte queste madre, altre figlia, cose. Figlia, padre. Comunità. Ciao, facciamo una ciao piccola tutti. Pausa e ci ritroviamo tra poco. Viva. YouTube. Un extended play di David Bowie che è stato pubblicato l'8 gennaio 2017. Sarebbe stato il 70° compleanno di David Bowie. Volevamo già parlarne in queste puntate. Poi nel mondo succedono talmente tante cose che è un po' difficile. Sì, poi tu hai detto David, tanto non è che è legato a un tempo, no? No, lui, insomma, si può sempre parlare di lui. Anzi, si dovrebbe sempre parlare di lui. Fa impressione perché sembra veramente suonata e cantata da dove sta. È vero. Ed è arrivata da lì. Tra l'altro ho scoperto questa settimana cosa sono gli EP. Ah, gli extended play, non sì, lo sapevi? Cioè che è solo digitale, no? No, più che altro l'extended play è anche una forma di proprio discografica che è più piccola di un album, perché l'album in teoria, sì, cioè in infatti. Origine si chiamava long playing, no? E invece questo è l'extended play, può essere in forma... Poteva essere in formato, diciamo, 33 giri, non si sì. dice, si, ma anche in formato piccolo. Perché ci stavano quattro brani. Ecco, come questi brani, di David, insomma. Arrivati dopo. Sì, dopo, sì, sì, insomma, sì, sì, arrivati. Sì, insomma. L'importante è che siano arrivati, ci siano. Sì. Questa è la sigla di una... Allora, intanto, vabbè, allora, questi brani tratti da Lazarus, che era la sua play, il suo spettacolo teatrale, insomma, bello tornare a parlare. Mi piacerebbe che nei podcast recuperaste la puntata che dedicammo a David Bowie un anno fa, anche brava. Perché, insomma, è stata... per te è una puntata particolare, eh? Certo, perché sentite anche Matteo Teardo, un grande amico che salutiamo anche lui, anche appunto con David adesso, quindi potete, sì, era gennaio dell'anno scorso, brava, mi fai quasi commuovere a raccontare questa cosa. Comunque, sì, insomma, se la riascoltate, la twittiamo, ecco, bella. Sentitela, sì, perché vale tanto. Però noi abbiamo usato David, allora, per diciamolo, parlare del piccolo alieno, sì, che è un po' lui, che è David, bambino, brava, l'alieno, sì, esatto, è una storia bellissima. Allora, vai. Cosa è successo? Tra l'altro è una storia che ha raccontato Repubblica nell'edizione di Firenze. C'è una foto bellissima, quella di un'opera. David Bowie piccolino, e questa foto di David Bowie piccolino è diventato un'illustrazione di un David piccolo che però è già grande e ha anche il suo lampo sul viso nell'opera di una giovane illustratrice che ho scoperto essere pisana, un'opera che adesso sta facendo un po' il giro del mondo, che appunto sì, è questo piccolo alieno. E noi, per farci raccontare un po' di questa illustrazione, abbiamo proprio al telefono Daniela. Daniela, ci sei? Sei con noi? Sì, Daniela Sbrana? Sì, ciao a tutti, ciao. Allora, che è successo? Questa tua opera, intanto ti chiedo, esatto, com'è nata, prima di dire poi cosa è successo dopo. Brava Marta. Perché allora, tu hai deciso di raffigurare questo David bimbo, ma con uno sguardo già adulto, e poi con la famosa saetta di Aladdin Sane, insomma. Sì, esatto. No, dunque, io ho fatto quest'opera in occasione di una mostra tributo che è stata organizzata l'anno scorso alla Galleria Spazio Cima a Roma. C'era una selezione di artisti vari, illustratori, fumettisti... anche il nostro appunto Tuono Pettinato, che ha partecipato all'organizzazione, e molti altri, e quindi ho tentato così di, come fan, non accanitissima devo dire la verità, però fan di David Bowie, ho detto beh, proviamo a fare questo tributo. E appunto mi è venuto in mente di riprendere una fotografia, insomma mi sono ispirata ad una fotografia in bianco e nero che ho trovato su internet, riadattandola però con uno sguardo, con lo sguardo che tutti noi conosciamo, tipico di David, e poi appunto la classica saetta, perché per renderlo un po' riconoscibile a tutti, pensando che comunque nessuno avrebbe riprodotto, ecco, comunque si sarebbe ispirato a un David piccolo in età giovane, e in effetti così è stato. Allora, ascoltiamo quest'audio che invece ci riporta a un altro personaggio fondamentale. Asked to marry me on the river Seine. There was a ring that I saw 2 years ago in Florence that I loved, that he went back for it. And found it. Somebody bought it. He found it, bought it from them, and he proposed to them. It was sweet. And of course I said yes. They shared nearly 24 years. Insomma, quando lui le ha fatto la proposta e lei gli ha detto di sì, Iman. Una storia d'amore straordinaria, quella di David Bowie e di Iman. Ma perché parliamo di Iman con al telefono Daniela Sbrana? Che cos'è successo, Daniela? Esatto, allora dunque, mandata quest'opera a questa mostra, è stata selezionata. Quindi è stata la mostra si può vedere ancora a Roma, peraltro. Sì, è ancora allo Spazio Cima. Appunto, è stata fatta un'altra edizione, perché è stata anche a Villa Ada, poi è tornata a Pisa con alcune opere, e ora di nuovo appunto allo Spazio Cima in occasione della ricorrenza di un anno dalla morte di David Bowie. E infatti ora è stata prolungata fino al 25 gennaio, perché comunque l'affluenza è sempre tanta. Bene. E il giorno del compleanno di David? Il giorno del compleanno di David, praticamente io ero comodamente seduta in salotto a studiare col mio cane accovacciato sulle gambe, quando mi giro casualmente su Facebook e vedo il delirio, cioè... mi hanno segnalato che la mia opera si trovava, la fotografia della mia opera si trovava sulla bacheca di Iman, e lei l'aveva proprio scelta per fare un posto di tributo a David per il suo 70° compleanno. E devo dire che per un artista vuol dire che tu hai colto veramente qualcosa. Sei la donna che lo ha amato, ha visto qualcosa, esatto, di prezioso. Questo, sì, che poi questo è il motivo poi che veramente mi ha fatto più felice. Vuol dire che in questo caso, appunto, l'arte è davvero è riuscita nel suo intento ed è arrivato quello che volevo poi, perché a me mi interessava proprio unire questa cosa del bambino e dell'adulto insieme, perché è un pensiero che ho sempre quando disegno. Poi penso che nell'adulto, cioè, ti rimane sempre qualcosa del bambino pensato, così come nel bambino c'è già probabilmente quello che sarà da grande, ecco, in qualche modo. E la cosa fantastica poi che è stato ripreso anche da altri, non mi ricordo se Brianino oppure... Brianino, esatto. Il giorno dopo poi me lo ritrovo nel posto di Brianino per però Daniela, l'amico. Dobbiamo dirglielo, perché loro lo sanno, gli hai scritto, li hai avvisati, come facciamo? Esatto, sì, perché dunque è stata condivisa, tipo 40.000 condivisioni, 150.000, cioè cifre che per me sono impensabili. Tra l'altro io, cioè, su Facebook, diciamo, ci sono e non ci sono, il giusto, per cui per me è stata anche una cosa ulteriormente enorme. E sì, però il problema è che il mio nome non c'era, perché Iman ha messo la certo. Vedi, i pro e i contro dei social. Lei è arrivata, esatto. Lei l'ha messa, è arrivata, ma adesso noi possiamo dirglielo con i social. Beh, diciamo sì, che abbiamo già tentato, ora non so se l'ha visto. Io sicuramente gli ho mandato una lettera, per quanto mi perché tu vorresti che l'avesse lei. No, regalare sì, no, esatto. Vediamo. Io vorrei che l'avesse lei, sì. Questo magari è bellissimo. Ecco, quello che le ho proposto anche tramite, appunto, questa lettera è anche che sarebbe bello organizzare una sorta di asta dove il ricavato, parte del ricavato, potrebbe andare in beneficenza. Stupendo. Lei segue anche, insomma, delle associazioni, sì. Si occupa di tutto questo. Perciò sarebbe bello, ecco. Sì, mi sembrava la cosa più giusta e più logica, visto che l'aveva scelta lei. Iman, chiamaci, che ti mettiamo in contatto con Daniela Sbrani. Daniela... Sì, magari, perché è veramente difficile trovarla. Questa storia però nel frattempo ha fatto il giro del mondo, è stata pubblicata da tutte le testate possibili e immaginabili. Che impressione ti dà? Cioè, a un artista, a un'illustratrice, questo che cosa dà in più al proprio lavoro? Magari nulla, però magari una soddisfazione. Certo, soddisfazione sicuramente. Appunto, magari non succederà niente, però già il fatto che, appunto, come dicevo prima, questo mio modo di fare arte sia arrivato, quindi quello che io ho messo dentro quell'opera, perché poi l'ho fatta col cuore veramente, cioè sia arrivato alla persona che è più vicina, che si trova più vicina a chi ho rappresentato e a chi ho voluto fare questo tributo, insomma, è una soddisfazione enorme. Trovarsela poi sui giornali di tutto il mondo, cioè, indescrivibile, perché non avrei mai pensato. Io sono un'illustratrice che sì, ho pubblicato alcuni libri, però ecco, con piccoli editori, una cosa molto tranquilla, ecco. No, io poi quando ancora dicevo che magari non porta nulla, nel senso emotivamente, magari a te da artista, non so se la notorietà conta qualcosa, però invece secondo me alla fine sarà un ottimo risultato. Da cuore a cuore. Ti posso chiedere, secondo te, come è arrivata Iman? Lei come giusta, l'ha vista? L'immagine, secondo te? Sì, no, indagando un minimo attraverso anche la galleria, sembra che un amico di Iman abbia fotografato l'opera e gliel'abbia mandata insieme ad altre. Ecco, se gli ha dato il link della mostra, appunto, si può anche trovare lo spazio Cima a Roma. E in più probabilmente ha fatto delle foto e lei ha scelto quella. straordinario. Chissà, magari ospiteremo qui a Radio Tube la telefonata tra Iman ma sarebbe stupendo. Ma poi dovrebbe parlare anche in italiano, questa è una mia forte speranza nel caso che avveri mai questa cosa. Ora io sì, inglese ok, però insomma parlare già un po' di ansia da. Dai, Daniela, grande, speriamo David che davvero questa cosa ciò si possa concretizzare. Si starà divertendo come un matto. Allora, grazie Daniela Sbrana, anche questo grazie, postiamo il link con l'opera, perché chi non l'avesse vista, è veramente, questo sguardo è incredibile. La simmetria di David. Sì, poi sei riuscita a trovare il bambino ma anche l'adulto in un'espressione sola, che non è poco, eh. Grazie. Grazie Daniela, ciao. Grazie mille, ciao. Ciao. Una breve ciao. Pausa e poi siamo ancora traffico. Insieme noi, traffico, tra poco. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. YouTube. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully come segno ho fatto questo. Cioè, per dire di tornare in studio, ho fatto come segno questo. Cioè, pensavo che ce l'avessi segno, con Trump. Tipo, no! Che? Perché? No, perché sai che ce l'hanno tutti con Trump? No, io propongo di aspettare. Anzi, senti, aspettiamo. Aspettiamo. Vabbè, intanto è accaduto quello che nessuno, Vox, ha scritto. Ma che davvero è accaduto? Vabbè, ma ragazzi, basta, diamoci pace. 5° presidente degli Stati Uniti. È 45, perché sai che questa settimana Barack Obama ha mandato degli auguri di pronta guarigione a George Bush 92 anni, certo, chiamandolo 42, non so come il numero del presidente della Repubblica, sì. Firmandosi 44. Sì. E poi in mezzo c'è il fratello, c'è il figlio, 43. No, ho sbagliato i numeri, insomma, scusatemi, io coi numeri lo sapete. Non ne parliamo. A me mancherà, sai che mi mancherà tantissimo? Faccio di quei danni coi numeri. Perché vuoi dimenticare i numeri dei nostri 40, no? E allora noi coi 40, ragazzi... Quando li compiremo. Ma non parliamo di Trump, mi mancherà pizzosa a me. Non parliamo di Trump. Sei il fotografo di Obama. No, ah, sì. Basta, non parliamo di Trump. Non parliamo di Trump? Non lo so, io non ho la scaletta, quindi devi dire tu che... Non ha preso il foglio della scaletta, me ne sono accorta adesso. Non ha preso il foglio, come se di solito sapessi cosa c'è in programma. Ma almeno il foglio... Io scopro alla fine della trasmissione che Daniele Bellazzi ha fatto tutto al buio. Tutto, come sempre, sempre, improvviso. Un improvvisatore. Ma sì, cosa c'è scritto? Leggi. Cioè non è RadioTube, è Radio Jazz. Leggimi, che tra l'altro ho anche problemi a leggere questo. C'è già la presbiopia, lo so. Vabbè, una roba da ricovero adesso immediato. Lo dico agli ascoltatori, è un catorcio. No, ragazzi, avevamo prima fisicone, Iron Man. Ma scusa, ma ti stava venendo una parolaccia, ma almeno di che più o meno. Ma scusa, ma adesso io qualche anno in ma più. Ma perché solo le 24 ore non ho mandato un fisicone, ho mandato Bellasio che si ammala sempre. Ma sono tutti di là, vabbè. Dimmi, cosa c'è? Leggi che non interessa alla gente onda. Che sono mal... Che cos'è questo fuori onda? L'hai voluto fuori tu, onda. Cosa è successo? Mandiamo il fuori onda. Christian Goldoni e Pier detto Matteo ci manda Gian ha detto Pier o detto... Matteo. Vai. Facciamo un po' un giro di ospiti. Quando parla Zanetti, che non è di immagine, non si è proprio gli saltiamo addosso. Abbiamo sentito bene? Gli saltiamo addosso. Tranquillo. Ecco. Cioè, è Striscia la notizia, sì, che ha trovato un fuori onda di un giornalista che dice quando parla quello lì gli saltiamo addosso. Ma non è colpa del giornalista. Cioè, tu lo difendi. No, io lo difendo, ma tanto è un bravissimo giornalista. Ma comunque non ha... Il punto, se il format delle trasmissioni è quello lì, sì. Cioè il format è un signore che conduce in studio, sì. Un politico in studio, magari anche due, una piazza là che quando parla il politico sbraita. Se il format è quello, cioè non è che poi uno può andare a fare il giornalista là nella piazza e però... lì nella piazza parlano e disquisiscono, no? Perché la società liquida hanno capito? Cioè, se la televisione ormai è un lunghissimo format, allora il giornalista uguale, dice allora io a questo punto, pam, scateno la rissa. Ma sì, cioè, è chiaro che, non so, non vorrei sembrare difendere l'indifendibile, ma il concetto è che la televisione tende ad assomigliarsi talmente così tanto che poi ormai sei costretto a ripetizione a fare le stesse cose, sbaglio? No, cioè, è no, anche però, colpa nostra, insomma, di noi telespettatori. Possibile che guardiamo solo quelle trasmissioni lì? Ah, torniamo al discorso della scorsa settimana con la cronaca nera. Brava, tutti ma a criticare. Ma non ha risposto nessuno, però. Non, cioè? No, che all'appello di Fiorello io non ho visto risposte. No, perché il dramma è che probabilmente tutti preferiscono questo tipo di televisione. Allora continuate a farla, però allora non facciamo i sopracciò nella stessa televisione di criticare quello che la televisione tiene in piedi. Io scherzo. Allora, un personaggio che a te piace molto, sì, che è Fedez. Grande. Allora, hanno fatto questa conferenza stampa questa settimana. Io purtroppo quel giorno non c'ero perché ho da fare delle cose molto belle, però a Roma. Ha fatto una conferenza stampa a casa sua. È come Brunori, cioè, che l'ha fatta a casa in un altro senso. Sì, in un altro senso, in un'altra casa. Brunori l'abbiamo appena sentito nel Salone del Villaggio. E lo potete guardare sul sito del Sole, sì, Pop TV, c'è Marta Cagnola. Che bello, ha fatto un video, tutta una roba nuova. Vabbè. Ci sono dei personaggi. Questo personaggio che a te piace molto ha fatto questo disco Comunisti con Rolex insieme a J-Ax. Tutta una provocazione, conferenza stampa, sono arrivati fintamente bardati da comunisti, però in questi attici lui aveva già fatto le foto a casa scatenando le polemiche, l'attico eccetera. Ma lui è un burlone anche nella vita privata, Fedez. Ma si vede. È un buon si tempone. Vede. Sì, cosa ha combinato? Ha fatto uno scherzo alla mamma della sua fidanzata Chiara Ferragni. Finalmente si smette di dire che è una storia solo per convenienza o solo per rete, perché infatti, secondo me è amore vero. Anche perché ci deve essere una coppia finalmente anche nella quale credo scoppiano tutte. Ma poi che convenienza hanno? Uno è strafamoso, il più famoso rapper di l'altro, la Fashion Black. Cosa devono crescere ancora? Cioè, non lo so. Hanno fatto uno scherzetto alla mamma sentiamo della lo scherzetto. Splendida signora Ferragni. Ecco qua. Ho comprato il regalo di Natale alla mamma di Chiara. Il regalo sarà un test di gravidanza impacchettato dove diremo che Chiara è rimasta incinta. Ho fatto questo pacchetto. Sopra scritto aggiungi un posto a tavola. Dentro c'è il test di gravidanza. Cos'è? Oddio. Lo sentivo. Sei incinta. No, ma che uno scherzo. Vabbè, ma scusami, ma glielo dice no, subito. Lei non ce l'ha fatta. Cioè, questa povera donna aveva il proprio terrea, no? Proprio era... No. Era diventata una specie però di, se di maschera di sale. Non sembrava favorevolissima a Fedez, troppo giovani. Beh, però, capito, favorevole è un conto, ma è incinta così da 0 a 10, evidentemente da lei così voleva un po'. Ma dice che se lo sentiva 6, almeno, no, da 0 ma... a 10 se lo sentiva 6. No, ma se lo, non so se hai notato che il tono di voce era me lo sentivo, no? No, me lo sentivo. È vero, brava. Me lo sentivo. Me lo sentivo, te l'avevo detto, ti avevo insegnato tutto. Esatto. E la povera Ferragni ha resistito un secondo e mezzo. Secondi. Infatti il povero Fedez dice cavolo, ma vabbè, abbiamo costruito lo tutto lo scherzo, il test. Lei ha visto la madre con quella faccia, no mamma, è uno scherzo. Però povera. Comunque sta diventando una specie di sitcom, sì, Fedez, loro... Ferragni e la mamma. Sì, a parte poi questa settimana hanno Fedez ha bellissima, litigato mamma. Con tutti i rapper. Ha litigato perché? Sì, ha litigato Marrakesh, Guepechegno, e poi invece Mischilla, esatto, e Mischilla ha detto io non tiratemi dentro questa storia, non ne voglio sapere niente. Ma perché sono così litigiosi? Perché si chiama dissing, si fanno i dissing nel rap. Sì, anche si nell'altro parlano male l'uno dell'altro. Come se tu in ogni pezzo del giornale dicessi oggi Trump ha fatto questo e però quello quella scrivania là è un pirla. No dai, sì. No. E quello là sarebbe terribile. Nel suo pezzo scrive oppure dentro il GR di 24, esatto, GR24 esatto. Fa sì però. Sì sì, dico va Marta Cagnola, no, Radio 24, sono le 24 ore, però quello lì è un pirla. Fanno così. Terribile. Sì, sì, litigano tantissimo. Ma litigano vero, Ma sono proprio sempre arrabbiati. Quello è vero, invece. Sì, poi ci sono le scuderie, secondo me ci sono anche un po' sì, di squadre. E tra l'altro i pubblici si dividono, Sì, se sì. Tu stai con quelli lì, poi non puoi stare con quelli là. Questa è così, pure eccessiva è così, come è cosa. È così, vabbè, bello, io un gran sto mondo. Con Fedez. Va un bene. Gran mondo. E con gli altri. Allora, ragazzi, è finito qui questo ma un pezzettino Radio di Donald. Dai, abbiamo qua. Facciamo una cosa, ringraziamo Christian Goldoni che non so com'è riuscito a stare dietro a questa puntata perché con Daniele Bellasio senza peggiorato di me, peraltro, come salute. Povero, è guarito adesso, dai. Eh? Ringraziamo Gianmarco Ferronato, che ha fatto regia insieme a Paolo Corleone. Sì? Perché è stato, non è stata una puntata, è stato un happening. E per essere sicuri che è successo, vi salutiamo con la voce del 45esimo presidente di Stato. Questo volevi fare? Sì, Donald. Eccolo qua, Donald, al prossimo sabato. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first.